Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: i mercati vanno a chiudere un'ennesima settimana positiva, pur con qualche correzione, ma insomma Milano guadagna lo 0,4% in questo momento, Parigi perde lo 0,3%, Francoforte lo 0,2%, Londra invariata, l'America guadagna invece lo 0,3%. Questa mattina fortissima la chiusura in Asia, soprattutto in Cina, e parleremo di questa spinta alla ripresa che sta arrivando proprio dall'Asia e nel caso specifico dalla Cina. Più 4,3% l'indice di Shanghai, molto bene anche Tokyo, più 1,90%. Più fermo invece Hong Kong, che è chiuso invariato. Euro a quota 1,4745. Tra i titoli, di nuovo fortissima Fiat, più 5,8% sopra i 10 euro per azione, 10,4 euro per la precisione. Forte di nuovo anche il Banco Popolare, più 4,4%, supera i 7 euro per azione. Bulgari più 4,85%, Tenaris più 4%, bene di nuovo Exor più 3%, Unipol più 1,3%, Intesa più 1%, come Lottomatica. Lo 0,90 lo guadagna Campari, e il giorno dopo l'annuncio dell'emissione obbligazionaria, e Pirelli. Terna più 0,7 come Luxottica. Chi perde invece oggi? In pregiro lo 0,7, così come Mediobanca e Finmeccanica. Mezzo punto percentuale di calo per Ansaldo e anche per le generali. Telecom meno 0,4 come Atlantia ed Eni, e anche A2A e Prismian. Lo 0,3% lo perdono sia Mondadori che Geox che UbiBanca. Molti titoli che hanno invece variazioni così non degne di tantissima nota. Penso a un gruppo di bancari che guadagnano 0,1, Popolare Milano, Monte dei Paschi, ma anche Italcementi e Mediaset, Snam, Rete Gas. Lo 0,3 lo guadagna Enel. Di cosa parleremo oggi per la cronaca? Beh, è uscito un... finalmente, infatti, sarebbe quasi da usare il nostro gallo, ma adesso vediamo. È uscito di nuovo il superindice dell'OCSE e vede a sorpresa Germania, Italia e anche Francia essere i paesi in cui il miglioramento, lo dice l'OCSE stesso, il miglioramento delle prospettive economiche è stato più forte. Questo si aggiunge a un dato sulla produzione industriale italiana più che buono e anche un dato che è appena uscito dall'indagine del Centro Studi Confindustria. Insomma, sembra che, io uso sempre il condizionale, ma insomma sembra che nella ripresa economica l'Italia, assieme alla Francia e alla Germania, possa giocarsi qualche carta in più. Questo relativamente al mese di agosto. La produzione è volata ad agosto in Italia a un più 7%, e tra l'altro l'ISAE stima che nel terzo trimestre dell'anno la produzione industriale italiana segnerà un più 5,5%. Sarà questo il nostro tema di apertura. Poi parleremo anche dei giovani, ce l'avete chiesto, ma insomma i giovani, l'agricoltura. Avremo un piccolo approfondimento su un settore che non sempre riusciamo a trattare, ma in cui per esempio tutti i giovani che come fenomeno in questi anni hanno deciso di abbandonare la città a favore della campagna, come si diceva una volta, hanno visto un calo del 20% nel fatturato, nei redditi, e nonostante l'impegno messo. E poi parleremo di un tema abbastanza delicato, cioè il rapporto tra grandi marche, marchi e grande distribuzione. Una denuncia che è arrivata ieri qui al Sole 24 Ore nel corso di un convegno, per cui il ritardo nei pagamenti sta assumendo proporzioni importanti, il ritardo nei pagamenti della grande distribuzione, quindi delle grandi catene, nei confronti dei grandi marchi. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiaramente avremo anche un aggiornamento sull'annuncio della riforma della pubblica amministrazione fatto oggi dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dal Ministro Brunetta, e lo sciopero dei metalmeccanici. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms. Le altre notizie in breve. Uscire, la leggo assieme a voi, l'indagine rapida del Centro Studi Confindustria. diffusa dopo i dati Istat di oggi, la produzione industriale italiana nel terzo trimestre dell'anno dovrebbe andare a un più 5,9%, e quindi pur restando sotto di un 20% rispetto all'andamento della nostra produzione prima della crisi, quindi fino ad aprile 2008, c'è un recupero del 7,5% dai minimi del marzo 2009. Ripeto, siamo ancora un 20% sotto i livelli del 2008, ma c'è un recupero significativo. Andiamo avanti con le altre notizie invece. Dicevamo dei mercati, l'oro oggi ha un po' più di tregua, sui mercati asiatici è calato a 1046 dollari, resta comunque a livelli record, di record storico, il petrolio è a 71 dollari al barile. Buona notizia dell'America sul deficit commerciale, cioè il disavanzo tra quanto l'America importa e quanto l'America riesce a esportare, è calato a 30 miliardi di dollari nel mese di agosto. Molti analisti si attendevano invece un aumento a 33 miliardi di dollari. Il Consiglio dei Ministri, oggi veniamo all'Italia, ha dato il via libera alla riforma cosiddetta anti-Fannulloni, i premi al merito non saranno più a pioggia ma solo ai più bravi, e il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto occorre ridare fiducia e merito agli eccellenti. Da oggi partono anche i versamenti per lo scudo fiscale, entro il 15 dicembre infatti dovrà essere versato l'importo corrispondente al 5% dei capitali rimpatriati per poter aderire, mentre gli atti amministrativi potranno arrivare anche dopo. E ancora il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha annunciato che entro il fine settimana, massimo entro lunedì, arriverà la circolare applicativa che dovrebbe estendere, come riportano oggi molti giornali, la copertura dello scudo, quindi la possibilità di aderire allo scudo, anche alle società di capitali che fanno capo a persone alle persone fisiche che effettuano il rientro. Quindi lo posso fare come persona fisica, ma anche con le società che fanno capo a me, pur essendo società per capitali. Nel frattempo la Guardia di Finanza ha scovato 1 miliardo di euro evasi, coinvolte 128 ditte di Vicenza del settore conciario, 128 imprese operanti nel settore della concia, praticamente 178 i soggetti denunciati, 1 miliardo di euro imponibile sottratto all'erario, con un'evasione, pensate, che solo ai fini dell'IVA è pari a 245 milioni di euro, solo di IVA non pagata. E praticamente erano movimenti, la Guardia di Finanza ha scoperto movimenti di denaro contante verso società fiduciarie di San Marino. San Marino, prima o poi si arriverà al nodo anche di San Marino, per oltre 17 milioni di euro. E poi società fittiziamente costituite all'estero, praticamente appunto 128 le imprese coinvolte. E sempre in tema di evasione, secondo il sindacato degli inquilini, la Sunia, il 40% dei contratti di affitto in Italia sfugge al fisco, perché con un'evasione che solo per i contratti d'affitto tocca i 3 miliardi e mezzo di euro, visto che ieri molti ci hanno chiesto, sì, belle le proposte sulla mobilità sociale, ma come trovare i soldi? Beh, già con queste tre notizie, adesso la butto chiaramente come provocazione, ma avremmo recuperato quasi 5 miliardi di euro. Lo sciopero dei metalmeccanici che questa mattina hanno sfilato nelle piazze italiane, 250.000 secondo la FIOM gli aderenti allo sciopero. I partecipanti al corteo sarebbero stati 100.000 a Milano, 60.000 a Firenze, a Napoli 50.000, mentre 30.000 a Roma e 10.000 a Palermo. Il segretario generale della FIOM, Gianni Rinaldini, le ha spiegato al nostro Stefano Totoro le ragioni di questa mobilitazione. Noi siamo qui oggi perché chiediamo il blocco dei licenziamenti, perché non è vero che la crisi è in via di superamento. e da qui partire per ragionare sullo sviluppo industriale, su problemi della riconversione che pure esistono. Nello stesso tempo diciamo che va sospesa da parte della Federmeccanica la trattativa in atto su il contratto nazionale che stanno facendo con due organizzazioni sindacali, perché quella piattaforma non è mai stata sottoposta al voto e alla validazione dei diretti interessati. Voi avete abbandonato il tavolo perché? Abbiamo abbandonato il tavolo perché loro stanno facendo, tentando di fare un accordo separato sulla base delle regole che sono state definite in un accordo tra CISL, UIL, Confindustria e Governo. Noi ribadiamo che per quanto ci riguarda noi abbiamo un unico vincolo, che è il voto dei lavoratori, e se dovesse esserci un accordo che non viene validato dai lavoratori, per noi quell'accordo non esiste, quelle regole noi non le applichiamo. E ha giudicato lo sciopero sbagliato il ministro Sacconi, mentre il leader della CISL Bonanni ha detto alla FIOM: cambi passo, serve un contratto nel settore. Avete letto sui giornali in questi giorni invece della cassa integrazione nello stabilimento Prada a Montevarchi, 250 dipendenti su 3.000 saranno in cassa integrazione. E ancora la SDL intercategoriale ha confermato lo sciopero indetto per il prossimo 11 ottobre di tutto il personale dell'Italia, riducendo però l'agitazione a 4 ore. In Germania, ultimo dato, e poi cambiamo tema, è arrivata invece un'inflazione più bassa del previsto, ma, e questo non è bellissimo, una contrazione, quindi una riduzione dell'export più forte delle attese. Infatti l'andamento è sceso, l'indice dell'export è sceso dell'1,8% rispetto a luglio, e quindi rispetto all'anno fa l'export e le esportazioni tedesche risultano in calo ancora di un 20%. Buone notizie, seppur da prendere con prudenza, sono arrivate invece oggi dall'Ocse, ma anche dalla Banca Centrale Europea, proprio per e sull'Italia. Eh sì, perché se sempre da Venezia, nel corso di una lectio magistralis alla Ca' Foscari, all'Università Veneziana, Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca Centrale Europea, ha detto è prematuro dire che la crisi è stata superata, però ha anche aggiunto l'economia italiana ha affrontato cambiamenti senza precedenti, molte piccole e medie imprese italiane vedono tempi molto duri, ma sono fiducioso che le imprese italiane usciranno dalla crisi meglio di come non sono entrate nella crisi, e prevarrà lo spirito imprenditoriale che è nei geni di questa nazione. Ancora Trichet ha aggiunto: la crisi ha mostrato una tenuta della finanza italiana, riferendosi al fatto che le banche italiane, lo abbiamo spesso riconosciuto, fossero meno intossicate da prodotti derivati da prodotti di carta rispetto ad altre banche europee e sicuramente a livello mondiale. Però Trichet ha anche aggiunto: attenzione, l'Italia non può rinviare alcune riforme economiche. Ma la vera notizia, secondo me, di oggi non è solo quella diffusa dall'Istat, la produzione industriale che è volata più 7% ad agosto rispetto a luglio, e rispetto ad agosto 2008 siamo ancora sotto di un 18%, ma a noi interessa il mese su mese per capire come si sta riprendendo l'economia. Le dicevo, la buona notizia è anche che secondo l'Ocse i segnali di ripresa si rafforzano soprattutto, guardando al superindice economico, in Italia 2 punti base mensile e 10 punti base su base annuale. Aumentano i segnali positivi per l'economia italiana, che, come ha affermato oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, potrebbe uscire dalla crisi più forte di prima. Una visione positiva che ha trovato un doppio riscontro nei dati sulla produzione industriale di agosto e nelle previsioni dell'Ocse. Ogni mese l'organizzazione con sede a Parigi elabora infatti il cosiddetto superindice, che fornisce indicazioni sulle prospettive dell'economia dei Paesi membri. Lo scorso agosto la crescita più forte è stata messa a segno proprio dal nostro paese e dalla Francia. L'indice riferito all'Italia è infatti cresciuto di 10 punti rispetto all'anno prima, ossia oltre il doppio rispetto all'incremento di 4 punti dell'intera zona euro. La seconda buona notizia è arrivata oggi dai dati Istat sulla produzione industriale di agosto, che è cresciuta di ben il 7% rispetto a luglio, realizzando così il più forte incremento mensile degli ultimi 19 anni. Il confronto con lo stesso mese del 2008 rimane negativo, ma i segnali di risveglio hanno coinvolto la maggior parte dei settori produttivi. In pole position, la siderurgia, con un incremento della produzione di quasi il 17% rispetto a luglio. Aumenti intorno al 13% poi per la meccanica, i mezzi di trasporto e gli apparecchi elettrici. Si è invece fermato a un più 6,7% l'aumento mensile della produzione di scarpe e abbigliamento. Sono rimasti viceversa in negativo la chimica, meno 2%, la farmaceutica in diminuzione di oltre il 9% e l'industria alimentare a meno 1%. E allora, molti di voi chiedono il gallo. Intanto fatemi salutare l'ospite nostro di oggi, con cui parleremo di questo, ma anche di nuovi modi per leggere l'andamento dell'economia italiana. C'è oggi un suo importante articolo su Sole 24 Ore in prima pagina. Professor Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison e editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori e a voi. Io lo dico spesso, anche per connotare il profilo dell'ospite, lei è uno degli economisti che meglio conosce i numeri veri, non che vi siano numeri falsi, ma i numeri precisi, il dettaglio dei numeri sul nostro export, le importazioni, sulle tendenze. Allora, volevate il gallo? Gallo sia. Non vi entusiasmate troppo, perché poi durante i mercati invece leggerò che cosa ha dichiarato oggi il guru dell'economia Nouriel Roubini, quello che predisse la crisi prima di altri sulle borse, e lì forse partirà un gufo. Ma allora, al di là della zoologia, professor Fortis, lei oggi, intanto vorrei un commento su questi dati, anche alla luce di quanto è uscito poco fa dal Centro Studi Confindustria, più 6% nel terzo trimestre della produzione, per cui ha recuperato praticamente, fatto 100 quanto era la produzione industriale italiana nel mese di, nel 2008 ad aprile, siamo sotto ancora di un 20%, abbiamo recuperato un 7,5%, eravamo sotto di un 27,5%, per cui sostanzialmente da un 63,5 siamo tornati, da un 73,5 siamo tornati a un 80, manca ancora un po' di strada, ma un suo primo commento. Questa crisi sta portando una valanga di dati all'attenzione degli economisti, dell'opinione pubblica, della gente comune. Bisogna sapersi un po' orientare in questo balletto di statistiche che un giorno sembrano andare malissimo, il giorno dopo vanno benissimo. Io personalmente ho sempre sostenuto che l'economia italiana, che aveva dei fondamentali anche finanziari molto migliori degli altri paesi, avrebbe avuto maggiori capacità di recupero, ed in effetti questi indicatori dell'OCSE di oggi, indicatori anticipatori che però sin dalla primavera che dicono che l'Italia, la Francia e la Germania avrebbero ripreso per primi, sembrano adesso andare a coincidere con gli indicatori reali, quelli che cominciano ad uscire dai mesi estivi e che mostrano una ripresa dell'economia di questi tre paesi. Diciamo che in qualche modo le economie meno malate, Italia, Francia, Germania, con meno debiti delle famiglie, meno crisi immobiliare e finanziaria, hanno anche i fondamentali per uscire meglio dalla crisi. Uh-huh. E questo però bisogna che lo associamo anche alla crisi del commercio mondiale, perché comunque questi paesi sono esportatori e per quanto stiano meglio degli altri faticheranno anch'essi a riprendere per il calo della domanda mondiale che rimane fortissima. Ecco, restiamo su questi flussi di commercio, poi magari lo dico anche in regia lunedì, riprenderemo anche il Baltic Dry Index per vedere come si stanno muovendo gli indicatori, il costo del nolo dei cargo a livello internazionale, è un indicatore molto importante per capire se sta ripartendo il flusso di merci a livello mondiale. Ma dicevo, professor Fortis, restiamo sugli indici, poi arriverò invece alla sua analisi su come va l'economia italiana e perché il PIL non ci dice tutto, non ci dice abbastanza. Lei dal suo osservatorio vede ripartire veramente una domanda asiatica, cioè è da lì che dobbiamo attenderci qualcosa, eh? La domanda asiatica per il momento ha certamente dato un contributo, ma comunque non sufficiente per sostenere il nostro export complessivo, che è diretto principalmente tuttora verso altri mercati, soprattutto verso l'Europa e gli Stati Uniti. Tra i paesi emergenti l'Italia in questi anni aveva sfondato soprattutto nell'est europeo, quindi in Russia e negli altri paesi di nuova annessione all'Europa, ma comunque non sufficientemente ancora nei cosiddetti altri BRICS, cioè Brasile, Cina ed India, perché questi mercati ancora sono abbastanza embrionali, tutto sommato. Cioè e rappresentano poco in termini di volumi? Ma non solo per noi, ma anche per i tedeschi, per gli altri paesi. Quindi noi dobbiamo vedere cosa sta facendo il mondo che ha la capacità di spesa in questo, o perlomeno che l'aveva prima e che purtroppo l'ha in parte perduta, perché mezzo mondo occidentale oggi ha troppi debiti e non è capace di spendere, non può fare né consumi né investimenti. Io credo che in gran parte le possibilità di recupero della nostra economia sono legate proprio al recupero endogeno di questo cuore, diciamo così, dell'Europa carolingia, dell'economia reale, Francia, Germania, Italia, ma anche Austria e Belgio, che in questi momenti sta sembrando reggere meglio la crisi. Proprio alcuni indicatori recenti che ho visto dimostrano che per esempio certi consumi anche di beni tradizionali come le calze femminili, di cui l'Italia è una grande esportatrice, stanno andando meglio in Germania che altrove, le nostre esportazioni gli vanno bene. Altri per esempio evidenziano un buon andamento delle esportazioni verso il Belgio, quindi diciamo che in qualche modo l'Europa deve un po' cavarsela da sola, perché se stiamo ad aspettare che i consumi degli americani e dei cinesi ci portino in alto, temo che dovremo aspettare molto. Allora, vedo alcuni messaggi che dicono: attenzione, nel biellese, a Carpi, nel vicentino, leggo diversi messaggi, nei distretti del tessile non si sta muovendo nulla. Altri messaggi dal bergamasco, in cui segnalano, adesso non posso riassumere tutti, ma dicono qui insomma la difficoltà è ancora molto forte. C'è il rischio, comunque, la possibilità, professor Fortis, che questo tipo di ripresa, proprio perché ha caratteristiche disomogenee, cioè parte dall'Asia ma non ne siamo meno coinvolti, si concentra su alcuni settori nel nostro primo paese per esportazioni, che è la Germania, abbia alla fine la caratteristica di una macchia di leopardo, cioè per cui alcuni settori possono ripartire, ma insomma non si senta complessivamente per ora? Beh, certamente il problema vero di questa crisi è che abbiamo visto il commercio mondiale, a cui noi siamo molto legati, ridursi di circa il 25% nel corso proprio dei mesi di questa crisi. Probabilmente sarà in grado di riprendere in tempi più o meno rapidi oltre la metà di quello che ha perso, perché gran parte è stato perso per effetto di destoccaggio da parte delle varie filiere produttive, però purtroppo una metà o poco meno della metà di quello che è stato perso è proprio legato allo svanire di una domanda che prima era sorretta dal debito e che adesso non c'è più e che quindi richiederà un tempo supplettivo per essere recuperata. Purtroppo molti settori sono gravemente penalizzati da questa situazione, alcuni erano già in relativa difficoltà prima della crisi a causa anche della concorrenza asimmetrica asiatica, questa crisi ha ulteriormente allargato i problemi, certamente. Dopo le informazioni meteo e la pubblicità, invece vorrei parlare e capire con lei che cosa, diciamo, non fotografa il PIL come dato dell'economia italiana. Non vorrei tornare sul ragionamento fatto in una puntata di 2 settimane fa, perché quello era più, diciamo, a livello accademico, il PIL come indicatore, diceva Kennedy, di tutto quello che, per cui non vale la pena vivere, e non misura quello per cui vale la pena vivere o per cui vale la pena che la vita sia vissuta. Lì eravamo più sul fronte così dell'analisi economica. Lei invece ritiene che si guardi troppo poco al risparmio, alle ricchezze personali degli italiani quando si fa il calcolo di come è messa l'Italia, e si guardi anche poco, se ho ben capito, ad alcuni indicatori fondamentali, la disoccupazione e anche il crollo del settore immobiliare. Sette 37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, non c'è, lo dico a chi scrive, nessuna euforia sui dati di oggi. Siamo a un meno 20% come livello di produzione industriale rispetto a un anno fa. C'è stato un recupero di 7 punti e mezzo mese su mese, e questo, voglio dire, permette anche di non di festeggiare, ma di dire bene, si sta consolidando un recupero, dati di oggi la mano, più forte delle attese, e poi quando arriveremo ai livelli del 2008 lì sì, potremo festeggiare con le campane. Professor Fortis, perché lei sostiene che al di là dei teorici della decrescita, ma insomma che il dato sul PIL pro capite, cioè si divide il PIL prodotto dall'Italia in un anno per il numero di abitanti, non fotografi bene la nostra situazione? Beh, perché il dato del prodotto interno lordo esprime soprattutto il reddito generato in un determinato anno, e a parte le problematiche legate al sommerso che in Italia sono fortissime e che alterano fortemente i confronti internazionali, bisogna considerare che poi comunque non basta produrre un reddito in un determinato anno, bisogna che nel medio-lungo termine un paese sia equilibrato dal punto di vista finanziario. Se per produrre un po' di reddito in più ci indebitiamo, facciamo dei consumi che non possiamo permetterci o degli investimenti immobiliari che non possiamo permetterci, come hanno fatto gli americani, gli inglesi, gli spagnoli in questi anni, finisce che poi il reddito arriva a un punto di rottura e comincia una recessione, comincia una crisi economica molto grave. L'Italia, ma anche altri paesi europei come la Francia, come la Germania, appaiono molto più equilibrati sotto questo profilo. Sembrava che crescessero meno e che quindi erano meno capaci degli altri negli anni scorsi, in realtà non stavano indebitandosi le famiglie e i consumi non correvano all'impazzata. Quindi se prendiamo altri indicatori, come per esempio la ricchezza netta delle famiglie fatte, che è costituita sostanzialmente dalle attività reali, la casa, i terreni, più le attività finanziarie nette, cioè le attività finanziarie, depositi, investimenti in titoli, in azioni, eccetera, dedotte le passività, cioè i debiti delle famiglie, scopriamo alla fine che diversi studi, per il momento ancora molto embrionali, perché i dati statistici sono abbastanza ancora grezzi, vanno affinati, però diversi studi convergono nell'affermare che la ricchezza netta pro capite sia delle famiglie che delle popolazioni adulte in Italia sia mediamente e anche dal punto di vista dei dati mediani superiore a quelli di molti altri paesi. Addirittura a livello di ricchezza mediana ci sono recenti studi che collocano l'Italia e il Giappone ai vertici mondiali con una ricchezza mediana superiore di oltre il doppio di quella degli Stati Uniti, cioè vuol dire che metà della popolazione italiana del Giappone ha una ricchezza media che è il doppio della metà superiore della popolazione degli Stati Uniti. Sì, noi sappiamo però che da noi gli squilibri geografici, professore, sono anche molto più forti che altrove. Lei citava appunto come all'interno della ricchezza mediana il fatto che l'Italia venga prima di Francia, Germania, Australia e addirittura anche i paesi scandinavi. Poi lei ricorda, a mio avviso correttamente, che se e quando arriverà la ripresa in maniera strutturata il Giappone e la Germania ricominceranno a produrre auto ed elettronica come sanno fare meglio di chiunque altro al mondo, noi torneremo, se Dio vuole, a produrre e esportare meccanica industriale, meccanica di precisione e anche la produzione di beni per la persona e per la casa, da tutto, cioè dall'abbigliamento, alla calzatura, al legno arredo. La Spagna è più difficile, per esempio, che torni a crescere con una speculazione immobiliare, e la Francia pure. Domanda dell'ultima che ho per lei. Quando però si dice, e ogni tanto lo dice anche il governo, lo dice il ministro Tremonti, è vero che noi abbiamo il primo debito d'Europa, 120% del PIL, ma abbiamo anche i risparmi più alti, diciamo, d'Europa. È verissimo, è innegabile, però che cosa vuol dire da un punto di vista della contabilità nazionale? Mica vuoi farla patrimoniale sui risparmi, cioè una volta che l'hai detto sarebbe come se dicessi ho un debito molto forte con la banca, però ho una casa in montagna, cioè, o la metto o mi impegno la casa in montagna, metto l'ipoteca sulla casa in montagna, o se no che me ne faccio? Prego. Che viene fuori l'ineguatezza del solo PIL in questo momento per misurare l'andamento della crisi, perché se guardiamo soltanto al PIL sembra che i paesi al mondo più in crisi in questo momento sono appunto la Germania, il Giappone e l'Italia, ma il PIL di questi paesi sta cadendo di più semplicemente perché sono le esportazioni di questi paesi che calano molto, cioè la crisi si sta sfogando in questi paesi soprattutto sulle spalle delle imprese. mentre in altri paesi, che pure hanno il PIL che cala di meno, ci sono degli indicatori, come per esempio i consumi delle famiglie, che stanno calando del doppio o del triplo rispetto all'Italia. Cioè, in pratica, in questi paesi come Stati Uniti, come la Spagna, come la Gran Bretagna, la crisi si sta scaricando direttamente sulle famiglie. Allora, si tratta di vedere se è meglio avere una crisi che si scarica sulle famiglie o una crisi che si scarica sulle imprese. Io penso che le imprese soffrono, ma sono più in grado di recuperare, mentre le famiglie, quando sono in difficoltà, portano anche a tensioni sociali gravi. Se a ciò aggiungiamo il fatto che la disoccupazione nei paesi realmente più in crisi sotto il profilo della domanda interna, come i paesi anglosassoni e la Spagna, sta galoppando a ritmi forsennati, mentre in Italia, in Francia e in Germania la disoccupazione è cresciuta molto di meno, emerge un quadro molto diverso da quello che ci direbbe soltanto la lettura del PIL. Professor Fotis, molti ascoltatori chiedono se nel suo ragionamento sulla ricchezza mediana, che appunto ci vede molto sopra altri paesi, si tiene conto del nero, dove per nero si intende l'economia realmente sommersa, quella che non si, cioè, che solo, esiste solo sulle stime, e anche dell'evasione fiscale, perché noi sappiamo che, insomma, vedere che i liberi professionisti dichiarano in media 18.000 euro all'anno lordi meno dei pensionati è irreale, non è così? Prego. Sì, bisogna distinguere più attentamente tra il reddito e la ricchezza. Sono due concetti completamente diversi. Il reddito è quello che sostanzialmente sono le entrate annue dei cittadini, no? Mentre invece la ricchezza, lo stock di ricchezza accumulata, è un qualche cosa di diverso, che si misura anche con indicatori diversi. Mentre il reddito è una misura statistica che proviene dalla contabilità nazionale, quindi dal calcolo appunto del PIL con tutte le sue particolarità, il calcolo della ricchezza, dello stock di ricchezza delle famiglie, è ancora una, diciamo, una metodologia abbastanza primitiva. Ci sono studi embrionali, come dicevo prima, che tuttavia probabilmente consentono di cogliere meglio la reale dimensione della ricchezza, quindi, perché a un certo punto la ricchezza è composta da case, queste si vedono abbastanza, molto meglio che non i redditi sommersi, dai terreni anche questi si vedono un po' meglio dei redditi sommersi, e in più ci sono le attività finanziarie che sono misurate nei conti finanziari delle nazioni probabilmente un po' meglio di quelli che sono i conti della produzione, che sono misurate a livello del PIL e del PIL pro capite. Quindi è molto probabile che la ricchezza, lo stock di ricchezza, i calcoli sullo stock di ricchezza dei vari paesi riescano in qualche modo a cogliere meglio anche la reale dimensione dello stato di salute di un'economia, perché il nero qui viene in parte ricompreso nelle statistiche. Grazie, perché ci interessa sempre il suo approccio che appunto non tiene conto solo delle variabili classiche della statistica, ma di tutto un insieme di componenti. Poi lo dico a chi scrive: nessuno sta dicendo che la ripresa sia in atto e la si veda con mano. Ci sono interi settori che sono fermi, interi settori che sono in difficoltà, anche laddove la produzione industriale è tornata a crescere come dato aggregato, notizia di oggi, ed è il motivo per cui ne parliamo. Siamo sempre, l'abbiamo precisato, sotto di 20 punti rispetto al livello del 2008. Adesso, prima delle informazioni per chi è in viaggio, vorrei, nel ringraziare Marco Fortis, salutare invece Marco Saraceno, omonimia, ma insomma non voluta, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori Italiani. Buonasera, presidente Saraceno. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Perché abbiamo parlato ieri di giovani, di mobilità sociale e di settori. L'agricoltura è un settore che non sempre riusciamo a trattare come dovremmo. Insomma, in Italia ci sono 250.000 agricoltori che hanno meno di 34 anni su un milione di complessivo di agricoltori in questo paese. È una bella fetta, vuol dire uno su quattro. Mi dica, prima della viabilità, poi continuiamo l'intervista, come sta andando il fatturato delle aziende guidate dai suoi associati? Guardi, è semplice dire che non è un bel momento. Purtroppo l'agricoltura italiana non sta attraversando un momento particolarmente favorevole, non è una crisi di prezzi dell'ultimo anno, è una crisi un po' più strutturata, è una crisi, se facciamo delle analisi rapportate agli ultimi 10 anni sulla nostra attività, abbiamo avuto un calo significativo dei prezzi all'origine e un aumento dei costi assolutamente consistente, per dare due cifre, meno 2% medio sui prodotti dell'agricoltura italiana in termini di prezzi di realizzo, più 30% in termini di aumenti di costi di produzione. Quindi c'è stato un calo della redditività delle nostre imprese abbastanza significativo, quantificabile in ragione di un 20-25%. Ma poi dopo l'informazione per chi in viaggio mi deve spiegare come mai i costi aumentano del 30%, i prezzi calano, i prezzi d'origine calano del 2%, tanto voglio dire, noi non lo vediamo sulla tavola, perché poi invece i prezzi come prezzo finale, quello che paghiamo noi, sono fermi o se non in rialzo. A chi contesta il dato sulle 18.000 euro di dichiarazione, è l'ultimo dato di Istat, riguarda le dichiarazioni dei redditi. I lavoratori autonomi hanno una media di dichiarazione di 18.000 euro lordi l'anno, meno di una media dei pensionati, lo dice l'Agenzia delle Entrate, non lo diciamo noi. Allora, mi risponde, caro Presidente dei Giovani Agricoltori, la domanda: come mai avete cali dei prezzi quando escono dal campo dei prodotti del 2%, aumenti dei prezzi di produzione del 30% e noi non vediamo invece nessun risultato poi sulla tavola? Ah, perché c'è uno scollegamento, un non collegamento vero fra i vari tratti che compongono la filiera dell'agroalimentare italiano. Purtroppo i prezzi in Campania seguono dei meccanismi che sono dei meccanismi che prendono in considerazione, in termini di parametrazione del prezzo, gli andamenti mondiali dei mercati su quello che produciamo in termini di prodotti agricoli. Quando si va poi sul mercato e quando si arriva a valle della produzione, ovvero sui processi di trasformazione, di distribuzione poi e vendita infine, evidentemente il meccanismo non è automatico. Questo è un qualcosa su cui bisognerà assolutamente incidere, bisognerà nel futuro che l'agroalimentare, soprattutto quello italiano, si presenti un po' più unito, e soprattutto bisogna dialogare un po' di più fra i vari tratti che compongono la filiera, al fine di cercare di creare margine, come dicevo prima, su tutti i tratti che compongono l'agroalimentare italiano. Ultima domanda, visto che lei rappresenta, lo ripeto, 250.000 agricoltori giovani, sotto i 35 anni, sono tantissimi, e devo dire che anche i giornali si sono occupati in questi anni di un flusso non biblico, ma insomma un flusso importante di persone che hanno scelto di lasciare la città per andare a produrre vino, produrre prodotti biologici o fare agricoltura anche di altro genere, giovani mi riferisco. Voi avete fatto mi dica? No, è un sì, è un dato, cioè, sostanzialmente sì, è vero, si è cavalcato un attimo questa notizia, queste indicazioni, però sostanzialmente bisogna dire che questo ritorno dei giovani dalle città alle campagne è un dato che andrebbe analizzato in maniera un po' più seria. Forse è stato. Voglio andare a vivere in campagna, lo lasciamo cantare da Toto Cotugno. Non ricordo. No, di qui regia, no, non me lo caricate per favore, vedevo già il tecnico che stava per partire con Toto Cotugno. No, invece, seriamente, che richieste avete fatto oggi ai parlamentari europei? Ma i parlamentari europei avranno un ruolo, soprattutto dopo questo buon viatico che è stato praticamente il referendum irlandese per la ratifica del Trattato di Lisbona. Adesso ci sono questi ulteriori due passaggi di conferma sul trattato in Repubblica Ceca ed in Polonia. I parlamentari europei avranno un ruolo fondamentale nella rivisitazione di tutti gli strumenti legislativi e la misura di riferimento, naturalmente, che riguarda il nostro comparto della politica agricola comunitaria. Noi ci auguriamo che possano rivisitarla, che ci auguriamo che la politica agricola comunitaria possa avere veramente una valenza economica e che possa incidere significativamente sul reddito delle nostre imprese. Ci auguriamo che la discussione rispetto al 2013 venga un tantino anticipata. Siamo, come le sa, in fase di revisione di bilancio da parte dell'Unione Europea e chiediamo sostanzialmente una conferma sulla posta finanziaria di quanto viene dato al mondo agricolo europeo, ricordando un dato su tutti, che in un'America che ritorna ad essere il riferimento per le politiche economiche di tutto il mondo, il governo decide di stanziare 77 miliardi di dollari sull'equivalente della loro politica agricola comunitaria, che si chiama il Farm Bill, su 2 milioni di agricoltori. La politica agricola comunitaria pesa a valore 50 milioni di euro annualmente, che vanno a incidere sui 10 milioni di agricoltori europei. Quindi un dato una sproporzione che sempre, un dato che ci piace sempre ricordare, che a monte, a valle, del momento agricolo c'è tutto un indotto che genera, per quel che riguarda l'Italia, a valore circa il 15% del PIL. Sì, quindi lei diceva la sproporzione tra i 77 miliardi che spenderà l'America per 2 milioni di agricoltori e i 50 milioni che spende l'Europa per 10 milioni di agricoltori. Grazie, in bocca al lupo per il settore e anche per l'età, a Marco Saraceno, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori. Adesso la borsa. Borsa che chiaramente girerà anche nella seconda ora del programma, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, nella persona di Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Allora, prima che tu inizi, cosa abbiamo? 30 secondi, il gufo lo facciamo sentire dopo, perché oggi Rubini ha detto che insomma arriverà una correzione tra poche settimane, ma per evitare gesti scaramantici, milioni di italiani in guida in questo momento, partiamo dalla giornata di oggi. 0,5 punto percentuale di rialzo a Milano, è la migliore, come mai? Allora, Milano è stata la migliore, ha chiuso in territorio positivo grazie alle performance di alcune società big, in particolare Fiat, che ha chiuso a più 5,3%, superando i 10 euro, una soglia che non vedeva da oltre un anno, e anche Bulgari, più 5,8%, il Banco Popolare più 4,3% e Tenaris più 4% circa. E allora, dopo il GR, Bulgari più 5,80%, Fiat, Banco Popolare, Tenaris, insomma... Fiat è sopra i 10 euro stabilmente, 10,3 euro, e Banco Popolare è sopra i 7 euro per azione. Le 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora concludiamo l'approfondimento di borsa. Spiegato l'andamento di Milano con alcuni titoli che prima ricordavamo. Milano ha chiuso con 0,5 punto percentuale di rialzo rispetto a Parigi, che ha perso lo 0,2, Francoforte che ha chiuso invariata, Londra più 0,1, l'America sta guadagnando lo 0,2%, Livia Zancaner, Fiat più 5,3%. Sì, allora Fiat, come dicevamo prima, ha superato oggi la soglia dei 10 euro, che è un livello appunto che le azioni non vedevano da settembre 2008. Gli scambi sono stati molto importanti, infatti sono stati pari al 7,2% del capitale per 79 milioni di azioni scambiate, mentre la media giornaliera dell'ultimo mese è di soli 26 milioni di pezzi. Allora, la Fiat oggi ha beneficiato di una serie di elementi. Allora, da una parte i giudizi positivi degli analisti, la buona intonazione del comparto auto, che è riuscito a sopravvivere, a resistere alle vendite, alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne. In particolare appunto Marchionne ha ribadito un target di utile operativo per il 2009 vicino al miliardo, ed è superiore al consensus degli analisti. Ha confermato ieri che Chrysler tornerà in utile nel giro di 24 mesi. Questo ha portato a ulteriori acquisti sul titolo. Bulgari, il migliore, più 5,8%. Sì, allora Bulgari bisogna dire che ha guadagnato nel giro di una settimana il 13,6%, allora grazie alla buona intonazione del comparto del lusso. Oggi però in particolare le azioni hanno beneficiato delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Francesco Trapani, che in un'intervista ha dichiarato che gli ultimi 3-4 mesi hanno mostrato per il gruppo un forte miglioramento rispetto alla prima parte dell'anno, e grazie e alla luce delle dichiarazioni di Trapani, Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo a 6,5 euro da 4,8 euro. Tenaris ha beneficiato, sapete che non li amiamo, ma di un report di UBS, e Banco Popolare è ancora molto forte, più 4,3% sopra i 7 euro per azione. Sì, allora il Banco Popolare ha beneficiato ancora delle indiscrezioni appunto riportate ieri sulle trattative con Barclays per la vendita della controllata Efibanca. Le indiscrezioni sono state riportate ieri dal Sole 24 Ore. Andiamo avanti con i titoli. Exor più 2,6, Unipol più 1,6, Campari più 1,2%, Intesa più 1,1, Pirelli più 1%, Lottomatica più 0,80, come Buzzi Unicem e come le CIR lo 0,7 lo hanno guadagnato Saipem, Luxottica, Fondiaria e Terna. La vicenda SNAI, perché è arrivata una smentita dalla SNAI stessa, le ipotesi di trattative di un'OPA per levare dalla borsa, delistare in gergo il titolo, un titolo che era stato sospeso anche al rialzo. Sì, oggi il titolo è stato sospeso più volte per eccesso di rialzo, appunto, per poi chiudere a più 13,44%. Allora, il rialzo del titolo sta a significare che il mercato e quindi gli investitori hanno creduto alle indiscrezioni stampa riportate oggi, secondo cui appunto il fondo di private equity Carlyle sarebbe intenzionato a rilevare la quota di maggioranza della società, appunto, per poi eventualmente toglierla dal listino. A contrattazioni chiuse, in quanto SNAI finisce le contrattazioni un'ora prima rispetto alla chiusura del mercato, poi è arrivato il comunicato stampa della società che appunto smentisce queste voci, i rumori di stampa circolati oggi. Allora, altri titoli, per quello che riguarda Telecom Italia, abbiamo dato la variazione percentuale, anzi l'abbiamo data nella prima ora, ve la ridiamo adesso. Telecom alla fine ha chiuso in negativo dello 0,7%, Ansaldo, così do anche i negativi, meno 0,8%, Mediobanca meno 0,90%, A2A e Impregilo hanno perso lo 0,6%, Generali lo 0,4%, Eni lo 0,3%, come Finmeccanica e Prismian. Dicevo, su Telecom poche novità: il numero uno del gruppo spagnolo Telefonica, quindi Cesar Alierta, ha detto che Telefonica è completamente impegnata nella sua alleanza con Telecom Italia. Franco Bernabé oggi, dopo l'intervista che c'era su Sole 24 Ore, è tornato sul tema delle dismissioni, ha detto: siamo confidenti, stiamo negoziando su più fronti, siamo fiduciosi che entro fine anno avremo dei risultati concreti da annunciare sul fronte delle cessioni. Euro a quota 1,4680. Buon fine settimana a te, Livia Zancaner, e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie anche a voi. La pubblica amministrazione, vedo alcuni messaggi anche su questo. Oggi è stato annunciato dopo il Consiglio dei Ministri, la riforma in 74 articoli della pubblica amministrazione, tolleranza zero per i fannulloni, premi per le eccellenze, una riforma improntata, secondo quanto ha ricordato il ministro Renato Brunetta, che l'ha presentata assieme al Presidente del Consiglio Berlusconi, improntata, dicevo, alla trasparenza e alla meritocrazia, con un taglio deciso delle lungaggini burocratiche per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Tra le novità più significative è la creazione di un'agenzia per valutare i dipendenti e il trasferimento non più volontario per i dipendenti pubblici. Sentiamo Brunetta. Oggi la mobilità dei pubblici dipendenti è volontaria. Non sarà più volontaria, nel senso che con tutte le garanzie, se c'è da spostare dei pubblici dipendenti da un'area all'altra, da un'area dove non sono più utili a un'area dove sono più utili, questo il dirigente lo potrà fare. I nuovi dirigenti dovranno fare 6 mesi all'estero, di stage all'estero, per capire cos'è il mondo, cos'è l'Europa. È prevista infine l'Authority, l'Agenzia della Valutazione, che è la grande novità che ci porta a livello europeo dal punto di vista del controllo, della trasparenza, degli standard, della valutazione e così via. Anche questa è una grande novità per la nostra pubblica amministrazione. E poi anche, visto il clima politico non certo, diciamo, disteso, va registrata questa dichiarazione di Brunetta, che ha detto: attenzione, siamo arrivati a questa riforma grazie anche alla partecipazione e alla collaborazione dell'opposizione. Abbiamo avuto il parere e l'intesa con l'altra metà del cielo, cioè regioni, province e comuni, con cui abbiamo trovato un'intesa totale, per cui siamo nella stessa barca, perché loro come noi sono datori di lavoro, le regioni, le province, i comuni, la sanità, e devo dire abbiamo trovato una grande collaborazione e una grande disponibilità, e abbiamo fatto un'intesa piena con la conferenza unificata. Devo dire che abbiamo avuto anche una buona collaborazione da parte delle opposizioni, al Senato addirittura con un voto per parti separate, per cui alcune parti sono state votate anche dall'opposizione. Questa è una riforma bipartisan, non è una riforma di parte, non è una riforma fatta a maggioranza, è una riforma voluta di fatto da tutto il Parlamento, al di là delle distinzioni ovvie di maggioranza e opposizione. Bene, questi tratti della riforma, vedremo poi la sua applicazione, sarà interessante anche monitorare magari fra un anno che cosa è cambiato nell'efficienza della pubblica amministrazione, intesa come premi al merito e invece punizioni per chi non le merita, e anche poi mobilità e efficienza interna. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi un ultimo aspetto che ci ha molto incuriosito, Insomma, la denuncia che arriva da chi rappresenta il 70% dei prodotti di consumo, dei prodotti che vengono consumati in Italia, ossia le 200 imprese che aderiscono a Centromarca, in cui stanno aumentando in maniera oggettivamente notevole i ritardi nei pagamenti della grande distribuzione. È un tema di cui non spesso ci occupiamo, ecco perché lo abbiamo scelto come ultimo tema per questa puntata. E allora, più volte ci siamo occupati nel raccontare quotidianamente questa crisi, prima finanziaria, poi economica, adesso occupazionale, dei ritardi, dei problemi nei pagamenti, dei problemi del credito per le piccole e medie imprese nel loro rapporto con il mondo bancario, ma anche dei problemi nei pagamenti. Abbiamo avuto testimonianze in diretta di addirittura imprese, grandi imprese, che fungono quasi da banca con i loro creditori, per cui, o meglio con i loro debitori, per cui dilazionano se stessi i pagamenti per dare possibilità a chi fornisce loro vari beni e servizi di avere un po' più di respiro. Questa volta affrontiamo il caso in maniera opposta, perché ieri nel corso del Consumer and Retail Summit, che è stato organizzato qui a Sole 24 Ore a Milano, è stato lanciato un allarme molto forte. Praticamente il ritardo nei pagamenti con cui le imprese della grande distribuzione pagano le industrie di marca che gli hanno fornito i prodotti sono passati da una media di 70 giorni a 103 giorni, con solo un terzo delle aziende puntuali. Praticamente stiamo parlando di un aumento dei ritardi del 43%. Allora siamo in collegamento con il presidente di Centromarca, Luigi Bordoni. Buonasera. Buonasera a voi. Voi riunite 200 imprese, però importantissime, oltre che grandi come dimensione, praticamente beni di consumo e beni durevoli, alimentare, chimico per la casa, tessile, elettronico, dei giocattoli, e avete le imprese che voi rappresentate, che unite, hanno una quota di mercato, del mercato dei consumi pari al 70%, quindi al di là del numero sono 200, ma rappresentano il 70% della quota di consumi complessivi. A quanto ammontano questi ritardi, ma soprattutto dove vanno a collocarsi, Presidente? E guardi, come lei ha detto prima correttamente, intanto precisiamo che non tutti i distributori ritardano, sono circa due terzi quelli che operano delle dilazioni di pagamento, quindi questo sta a significare che volendo si può pagare nei tempi corretti, nei tempi concordati. Quindi teniamo poi presente che i tempi di pagamento italiani sono i più lunghi in assoluto in Europa e probabilmente nei paesi industrializzati. Questo è purtroppo una nostra consuetudine e è anche un nostro malcostume, perché noi riteniamo che un sistema efficiente, per esempio nei rapporti tra distribuzione moderna e industria di marca, sarebbe molto importante che queste cose non avvenissero, perché è un sistema che deve produrre valore, deve essere improntato al rispetto delle regole e degli accordi. Allora, in altri paesi, penso alla Francia, i tempi di pagamento sono fissati in 60 giorni. Se tu non vieni pagato dall'azienda a cui hai fornito, dal grande gruppo della distribuzione a cui hai fornito dei prodotti, è lo stesso grande gruppo che deve pagare un'ammenda allo Stato. Ora, vorrei capire se questa è una soluzione possibile. Certo che in Italia il primo a essere in ritardo nei pagamenti è lo Stato stesso, perché ci sono quasi 30 miliardi di euro di mancati pagamenti o mancati perché in ritardo della pubblica amministrazione nei confronti del mondo delle imprese, quindi diciamo sarebbe bene che l'esempio arrivasse dall'alto, come si suol dire. Ma insomma, voi che azioni di contrasto mettete in campo per così spingere la grande distribuzione a pagarvi? Guardi, sempre da questo sondaggio che abbiamo presentato ieri nel convegno di Al Sole 24 Ore, ne abbiamo anche dato un'altra indicazione, cioè diversi mezzi di contrasto, dalla sospensione o rallentamento delle forniture all'addebito degli interessi, danno risultati sempre molto parziali. Addirittura il 10% delle nostre aziende afferma di non avere, di non ottenere alcun risultato dalle azioni di contrasto. E la disposizione, cui ha fatto cenno, francese, è entrata in vigore all'inizio di quel 1 gennaio di quest'anno, proprio per far fronte a una situazione che conosciamo molto bene di emergenza del credito. Teniamo presente che anche se le nostre aziende sono aziende di grande marca, non necessariamente sono tutte grandi, quindi si può creare, si può verificare, di fatto si verifica, che vi sia un grande gruppo, di grandi gruppi di distribuzione che ritardano i pagamenti a delle aziende medie o magari anche medio piccole. Quindi a questo punto l'esempio che faceva lei si ribalta, perché abbiamo delle aziende medio piccole che fanno da banca alla grande distribuzione, quindi questa cosa non può funzionare. Mi scusi Presidente Bordoni, ma lei che idea si è fatto del perché di questo aumento dei ritardi, ripeto, da una media di 70 giorni si è arrivati a 103 giorni? Cioè c'è una difficoltà nella grande distribuzione. La grande distribuzione vuol dire tutte le grandi catene alimentari, di supermarket, ma non solo, anche dell'abbigliamento. C'è un problema loro, per cui anche loro stanno soffrendo e quindi ritardano, dilazionano i pagamenti, oppure, come suggeriscono alcuni ascoltatori, giocano, come fanno delle volte anche altri soggetti, sui tempi. Cioè tu incassi subito, paghi, aumenti il ritardo nel pagamento, insomma, e questi soldi che tu hai incassato subito generano un interesse. Cioè c'è una difficoltà vera o un po' di, così, di speculazione sugli incassi? La situazione naturalmente, come sempre, non è univoca. Ci possono essere delle aziende, a questo punto non sono le più grandi, però tra i distributori, che possono avere difficoltà, e questo è un altro problema. Abbiamo ora anche il rischio del credito e alcune insolvenze. Ormai abbiamo dei distributori medi che sono in difficoltà oggettiva, in amministrazione controllata. Però se parliamo dei grandi gruppi, così come abbiamo dei grandi gruppi che pagano puntualmente, non si capisce perché gli altri non lo devono fare. Quindi evidentemente si approfittano di una situazione nella quale i fornitori non hanno mezzo per fare valere i propri diritti. Perché in Francia hanno varato la legge? Perché non si riusciva ad ottenere il risultato. Quindi la legge francese, che dice 60 giorni dopodiché paghi una multa allo Stato, va proprio incontro a questa necessità. Teniamo presente che nessun fornitore porterà mai in giudizio un grande cliente, quindi addebitare gli interessi non serve se poi non vado fino in fondo e non mando i decreti aggiuntivi. Questo non succede. Quindi ci si approfitta di una debolezza oggettiva di grandissima parte dei fornitori. Sono pochi quelli che dicono, che possono dire, senza il mio prodotto non puoi stare, quindi appena ti sospendo tu pagherai in ora. In chiaro, perché uno trova un soggetto della grande distribuzione può trovare altri prodotti. Ultima domanda: visto che venite pagati in ritardo, scaricate questo ritardo sui vostri fornitori, perché arrivano alcuni messaggi in cui dicono attenzione, anche le aziende dei grandi marchi a loro volta, diciamo, dilazionano i pagamenti. Cioè si va verso una catena di Sant'Antonio? Senta, quando noi andiamo a fare la spesa paghiamo subito, altrimenti non usciamo dal supermercato. Beh, questo sì. No? Questo mi sembra un dato di fatto. Allora, chi fa cassa, per così dire, è il distributore. Se il distributore non fa risalire le risorse economiche, il denaro a monte, evidentemente la filiera si inceppa. Allora ci possono essere aziende che hanno una posizione solida, florida, eccetera, che possono ottemperare, altre invece che ovviamente non possono che ripercuotere a monte questa situazione. Allora, credo che la soluzione stia nell'osservare tutti quanti gli impegni, a cominciare da quelli che dal consumatore vengono puntualmente pagati. E io credo che la soluzione stia innanzitutto nel trovare tra di noi, tra clienti e fornitori, una soluzione che però sia una soluzione garantita e che abbia dei risultati effettivi, altrimenti poi ne soffriranno tutti. E poi tenga conto che questo ha un costo, quindi i costi di queste inefficienze su chi ricadono? Sul consumatore, naturalmente. Sì, mi sembra che lei abbia detto in maniera abbastanza chiara che sì, anche voi a questo punto, se venite pagati in ritardo, a meno che uno non abbia una grossa struttura dietro, pagate a vostra volta in ritardo i vostri fornitori. Ecco perché va interrotta la catena. Grazie al presidente Centromarca Luigi Bordoni. Buonasera, grazie. E da Sebastiano Berisoni veramente tutto, auguro un buon fine settimana a voi in ascolto, un ringraziamento a Mauro Del Cone e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Filippo Reggi in regia, noi ci risentiamo lunedì, spero in migliori condizioni di voce, dalle 17 in poi.